Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada. Ricordati chi ti ha lasciato già sapeva dove andare. Apri gli occhi e guarda il mondo intorno a te. Non cercare una risposta se non c'è. Fatti un selfie con la vita, sulla vita ti può dare felicità. Per un graffio al cuore non si muore mai. Se ci credi si guarisce prima o poi. Dai più tempo al tuo dolore. Ricordati chi ti ha lasciato già sapeva dove andare. Leggila così. La felicità c'è chi te la porta all'improvviso quando arriva e te la toglie quando poi va via. Ricordati chi ti ha lasciato già sapeva dove andare. Apri gli occhi e guarda il mondo intorno a te. Non cercare una risposta se non c'è. Fatti un selfie con la vita, sulla vita tu vuoi dare felicità. Per un graffio al cuore non si muore mai. Se ci credi si guarisce prima o poi. Dai più tempo al tuo dolore. Ricordati chi ti ha lasciato già sapeva dove andare. Devi crederci ancora. E una luce nel buio si accenderà. Devi crederci ancora. E di mano ritorna ad innamorare. Devi crederci ancora. Ed un cuore dal cuore cancellerà. Forza l'aspetti già. Guardala in un tromba. Guarda da nuova sa. Apri gli occhi e guarda il mondo intorno a te. Nato cuore rindo cuore boccare. Fatti un selfie con la vita. Sulla vita tu vuoi dare felicità. Per un graffio al cuore non si muore mai. Se ci credi si guarisce prima o poi. Dai più tempo al tuo dolore. Ricordati chi ti ha lasciato già sapeva dove andare.